Introduzione. Grazie a Dio sono ateo. Leggo questa paradossale ed ironica dichiarazione su una t-shirt che un giovane porta con disinvoltura e forse perfino con orgoglio, mentre cammina allegramente per strada. I belong to Jesus, io appartengo a Gesù. Milioni di spettatori e telespettatori hanno visto quest'altra dichiarazione, esistenzialmente impegnativa, scritta sulla propria maglietta e mostrata con entusiasmo dal calciatore Kakà, al termine di un'importante partita. Siamo in una società libera, e meno male. Qui ciascuno pensa come vuole, e crede quello che vuole. La libertà di pensiero, la libertà di coscienza, la libertà religiosa, sono diritti fondamentali dell'uomo, anche se ancora non ovunque riconosciuti o rispettati. Libertà di pensiero non significa però, come molti credono, che possiamo inventarci la verità. Ad esempio, di fronte ad un'evidenza, che è il caso più lampante di una verità, la mia intelligenza non è infatti libera di negarla. Se apro gli occhi e vedo un libro, la mia mente non può negarlo. È libera invece la mia volontà, e per questo posso anche rifiutare una verità. Posso dire, mentendo, che non è un libro, ma non posso pensarlo, posso volerlo o rifiutarlo, leggerlo o neppure aprirlo, e perfino bruciarlo. Certo, quando non si conosce ancora bene la verità, possono esserci opinioni diverse. Se c'è buio nella stanza, posso dire che mi sembra un libro ed un altro dire che gli sembra una scatola. Ma quando una verità si manifesta chiaramente, quando c'è luce e si vede, non si può negare. La verità è una. Perché le cose sono quello che sono? Perché l'essere è uno? Questo è ovvio, anche se il relativismo dominante vorrebbe oscurare anche questa certezza assoluta. Anche quando non so quale sia la verità, so però con certezza che è una. Essa ha certo molteplici aspetti e posso conoscerla a gradi diversi, ma in sé è una. Se uno mi dice che ora in casa ci sono tre persone e un altro mi dice che ci sono in casa due ragazze, possono avere entrambi ragione, perché ci possono essere due ragazze e un ragazzo. Stanno cioè parlando della stessa cosa, ma in realtà sotto aspetti diversi. Ma se uno mi dice che in casa ci sono tre persone e un altro mi dice che ci sono due persone, non possono avere entrambi ragione. Sono sicurissimo. Essi possono avere entrambi torto, perché magari ce ne sono quattro o cinque, ma non entrambi ragione. Se poi uno mi dice che in casa c'è qualcuno e un altro mi dice che in casa non c'è nessuno, oltre a non poter avere entrambi ragione, non possono avere neppure entrambi torto. Se uno ha ragione l'altro ha torto e se uno ha torto l'altro ha ragione. O c'è qualcuno, qualsiasi numero, o non c'è nessuno. Non si può affermare e contemporaneamente negare la stessa cosa. Perché tra essere e non essere, non c'è una terza ipotesi. E non si tratta di una legge del pensiero, ma dell'essere. La cosa stupefacente è che questa certezza assoluta noi l'abbiamo a priori, cioè prima ancora di entrare in casa e verificare. Dovrò verificare, entrando in casa e guardando in ogni stanza, quante persone ci sono effettivamente, ma sono assolutamente certo ancor prima di entrare che la verità è una. Che non possono essere tre e contemporaneamente non tre. Qualcuno e nessuno. Questa è una magnifica capacità dell'intelligenza, che ci permette di avere un'evidenza assoluta. Da qui partono e con questa evidenza si muovono sia il buon senso che tutti i nostri ragionamenti, sia nella vita quotidiana, come nella matematica, sia nella scienza che nella metafisica. Su questo si fonda la logica, senza la quale ogni nostro dire e ogni nostro ragionare rimarrebbe senza senso. Detto questo, torno alle due affermazioni: Dio c'è o no? Gesù è Dio o no? Qual è la verità? Anche se dicessi ancora che non so, è però assolutamente certo che l'affermazione dell'esistenza di Dio e l'affermazione dell'ateismo, che è la negazione dell'altra, non possono essere entrambe affermazioni vere e neppure entrambe false. Se una è vera l'altra è ovviamente falsa, e viceversa. Questo è ovvio, assolutamente certo. Ma non possiamo dire niente di più. Dobbiamo rimanere in una perenne sospensione di giudizio, senza poter sapere in proposito qual è la verità. Molti pensano che le cose stiano in questi termini, che la questione di Dio non sia cioè risolvibile, poiché non si può vedere, almeno in questa vita, non si potrà mai sapere se ci sia o no. Per questo c'è chi ci crede e chi non ci crede. Sarebbe quindi un atto di fede cieco, senza alcuna prova, tanto credere in Dio quanto l'ateismo? Anzi, molti pensano addirittura che, poiché Dio non si vede, sarebbe una sciocchezza credere che esista e sarebbe quindi più razionale essere atei. In un diffuso stile di vita materialista, la questione sembra poi diventare evanescente. Una questione astratta, senza via d'uscita, oziosa. e quindi sostanzialmente indifferente per la nostra vita concreta. Molti pensano perfino che sia non solo inutile ma perfino nocivo credere in lui. Se l'influsso del marxismo portò nei decenni passati molti a considerare la fede in Dio come alienante, in quanto impedimento a realizzare l'autentica giustizia e il vero cambiamento sociale, oggi l'individualismo e l'edonismo dominanti spingono a considerare la fede come alienante in quanto insopportabile limite alla propria libertà ed impedimento a godere appieno i piaceri della vita. Negli ultimi tempi sta pure crescendo la paura che l'affermazione di Dio porti al fondamentalismo e sia cioè fonte di intolleranza. In questo fascicolo vedremo invece sinteticamente come la questione di Dio sia non solo la più decisiva ed urgente per la vita dell'uomo, ma anche come già la sola ragione umana possa almeno un poco risolverla, giungendo a capire che Dio c'è. Siamo fatti per la verità. Prima di addentrarci nella questione di Dio, ci chiediamo se sia in genere importante la ricerca della verità. Per molti cercare la verità pare oggi essere un'occupazione insignificante, un'inutile perdita di tempo o roba per filosofi. Il relativismo vuole poi con forza convincerci che questa ricerca non porti intanto da nessuna parte, che potremmo avere su ogni cosa soltanto opinioni, non certamente la verità. Peccato però che il relativista non si accorga che si contraddice, perché intanto non relativizza se stesso, anzi si mostra molto inquietato con chi non è d'accordo lui. Vorrebbe anzi imporre socialmente questa sua posizione, come condizione per una vera libertà e di un'autentica democrazia. Insomma, una sorta di dittatura del relativismo. Dovrebbe essere infatti chiaro che chi dice non c'è la verità vuole intanto già affermare una verità. Il relativismo è in realtà impossibile e contraddittorio. Coerentemente dovrebbe condurre al silenzio, come osservava già Aristotele. In realtà l'uomo mostra da sempre di essere fatto per la verità. Perfino un bambino piccolissimo ci bombarda con i suoi perché, e perfino coi perché dei perché. Ma ogni domanda di perché è in fondo una domanda di verità. Così l'adolescente comincia poi a domandarsi i grandi perché della vita. Perché poco o tanto, prima o poi, l'uomo intuisce che non si vive senza un perché, senza un significato. Una vita tutta assorbita dalle cose da fare e spesso attirata spasmodicamente dalle cose da avere, rischia di diventare molto presto una vita disumana. Il materialismo, non solo quello teoretico di alcune filosofie ma quello pratico oggi assai diffuso specie in Occidente, vorrebbe convincerci che questa è la concretezza della vita, ciò di cui abbiamo bisogno. In effetti abbiamo bisogno di tante cose, senza le quali sarebbe difficile vivere. La logica commerciale sollecita poi in noi perfino dei bisogni artificiali, per poterci vendere sempre qualcosa di nuovo, che sembra indispensabile. Tutti vogliono tutto. Per poi accorgersi che è niente, canta Renato Zero. Perché intanto ci accorgiamo che le cose più importanti della vita in realtà non si possono comprare, come l'amore vero, l'amicizia sincera, la pace interiore, il senso stesso di quello che facciamo. Non c'è un centro commerciale per acquistare queste cose. Da quando esiste sulla Terra, noi vediamo infatti che l'uomo ha sì bisogno, come gli altri animali, di mangiare, bere, dormire, sente la voglia di accoppiarsi, ma... A differenza di tutti gli altri animali, l'uomo ha dentro di sé un bisogno più grande, una fame di qualcosa che lo attira e nello stesso tempo sempre lo supera. Già l'uomo delle caverne ha sì bisogno di cose immediatamente utili per vivere, come costruire un bastone con una pietra acuminata per cacciare o difendersi dalle belve, ma disegna anche un graffito sulla parete della caverna e prova a fare della musica, sia pur rudimentale. Questo non risponde ad un bisogno materiale. Cioè alla domanda a che cosa mi serve, all'utile, ma ad un bisogno più profondo. La domanda a cosa serve non è la domanda più importante. L'utilitarismo è una riduzione della vita. Abbiamo ad esempio fame di bellezza. L'esperienza della bellezza, come la conoscenza della verità, è già un godimento in sé, anche se interiore. Ogni forma d'arte, dalla più rudimentale alla più elevata, esprime questo bisogno. E nello stesso tempo ogni produzione artistica. Anche la più alta, non soddisfa pienamente la nostra fame di bellezza. Ogni vero artista prova questa gioia e nello stesso tempo questa inquietudine. Abbiamo infatti fame di una bellezza infinita. Anche l'arte manifesta dunque che siamo nella materia, ma in noi c'è un elemento spirituale, che ci eleva al di sopra delle cose e tende all'infinito. Sarebbe ridicolo ricondurre l'arte alla materia. Una sinfonia di Beethoven non sarebbe che un insieme di onde sonore che percuotono il timpano del nostro orecchio. Un quadro di Caravaggio non sarebbe che un insieme di colori che colpiscono la retina del nostro occhio. In realtà anche questo ci manifesta che siamo nel mondo, ma c'è in noi qualcosa di più della materia, che va più su, e che vuole andare sempre più su. Forse anche per questo Dostoevsky è arrivato a dire, la bellezza salverà il mondo. Così, l'essere umano non si accontenta di provare piacere nell'accoppiarsi, ma si sente solo e sente di essere fatto per l'altro, pertanto che cerchi di accontentarsi del piacere. In realtà sente che ha fame d'amore. Ma anche in questo, anche nell'esperienza dell'amore, fosse pure il più bello, prima o poi si rivela un limite. Abbiamo bisogno di un amore più grande. Potremmo confonderlo col bisogno di cambiare persona, di provare un nuovo amore. Molti credono che basti questo e si buttano in sempre nuove avventure. Anche se ci fosse un amore più grande, non potrebbe ugualmente soddisfarci pienamente. Siamo fatti per un amore infinito. Quando poi la morte ci passa vicino, prendendoci una persona cara, proviamo una tristezza infinita. Ci sembra impossibile che lei o lui non ci sia più. Sapere poi con certezza che anche noi moriremo non può non farci porre la più grande questione della vita. Perché sono nato? Perché vivo? Sono fatto per il nulla? La morte ci si presenta come un limite angosciante, come se intuissimo che non dovrebbe esserci, che siamo fatti per un oltre, che essa non può segnare la fine totale di noi. L'uomo di ogni tempo e civiltà ha avuto infatti questa intuizione. Potremmo dire allora che l'uomo ha fame non solo di vita, ma di vita eterna. Ogni nostra scelta è sospinta dal desiderio di felicità. Quando un uomo non ha più questa speranza di felicità, diciamo infatti che è disperato. È una fame talmente forte che il disperato può arrivare anche al suicidio. Meglio non vivere che vivere senza una speranza, senza un'attesa di felicità. Meglio non vivere che vivere senza senso. Ma la gioia vera non può essere costruita artificialmente, non si può comprare. Per fare allegria può bastare anche un po' d'alcol o altro nel sangue. Un po' d'euforia che spesso si paga con la successiva depressione. Non si tratta dunque di vera libertà, ma di una schiavitù. Per avere la gioia c'è però bisogno di ben altro. Può capitare inoltre di confondere la felicità con delle tappe intermedie. Sarò felice quando avrò quella cosa, quando farò quella cosa. Poi ci accorgiamo che non è così, che anche quando abbiamo raggiunto quella meta, nella migliore delle ipotesi è solo una tappa, cioè poi non ci basta, siamo fatti per qualcosa di più. Molti si affannano allora a moltiplicare le cose da avere e le cose da fare. Lavoro estenuante e vissuto senza senso. Serate rapite sempre dalla televisione, discoteche per accendere i sensi e spegnere il cervello, notti bianche e giorni neri, domeniche passate a dormire o ai centri commerciali, vacanze comandate dalle agenzie di viaggi, tutto sempre di corsa, obbedendo all'ultima moda, fino ad arrivare a dimenticare non solo gli altri, perfino di casa, ma anche se stessi, a non pensare nemmeno più perché viviamo. In questo modo si diventa poi cinici, anche a 20 anni, si arriva cioè a convincersi che la felicità non esiste, che al massimo esistono solo felicità passeggere, che esistano solo scampoli fuggevoli di felicità. Ma anche se cerchiamo di accontentarci, sentiamo in realtà che siamo fatti per un oltre. Se siamo sinceri con noi stessi, riconosciamo che abbiamo fame di una felicità infinita, di un bene infinito. Non abbiamo dunque solo bisogno di cose da fare. Ma abbiamo ancora più bisogno di un senso con cui farle. Abbiamo cioè bisogno di un significato e di un significato vero. Non abbiamo solo bisogno di vita, ma del senso vero con cui vivere. Vivere senza un senso vero, in realtà non è vivere ma è un sopravvivere. Abbiamo fame di significato, di un senso vero. Abbiamo cioè fame di verità di vita. Quindi, se abbiamo il coraggio di guardarci dentro, di vedere realisticamente noi stessi, dobbiamo prima o poi riconoscere che il nostro più profondo bisogno di bellezza, di vita, di amore, di felicità, di verità, è in realtà bisogno della bellezza, vita, felicità, verità infinite, di amore infinito. Possiamo dire che abbiamo bisogno di un essere infinito. Siamo un essere davvero speciale. L'uomo è un essere finito, ma con dentro una fame di infinito, per cui nelle sue aspirazioni non si accontenta mai e trascende sempre se stesso e l'universo intero. È parte del mondo ma con il suo pensiero è più del mondo. È un animale evoluto ma ha dentro qualcosa di spirituale, di divino, che lo rende di fatto signore del pianeta. E nello stesso tempo l'universo intero non gli basta. Quando appare l'uomo, per la prima volta vediamo infatti sulla Terra un essere che non è solo un animale biologicamente e cerebralmente evoluto. Ma un essere che porta in sé una traccia divina, una caratteristica spirituale che lo rende simile a Dio. Del resto in ogni civiltà, ovunque e sempre, l'uomo ha almeno intuito che non è fatto solo di un corpo, ma possiede un'anima. un io spirituale che lo rende superiore ad ogni altro animale, e che non gli permette di accontentarsi, ma lo sospinge verso l'infinito. Anche la filosofia ha quasi universalmente compreso che l'uomo ha un'anima spirituale. Essa, pur essendo ovviamente invisibile, si manifesta però attraverso quella superiore capacità di pensare e di essere libero, che caratterizza appunto l'umano. La superiore grandezza e dignità dell'uomo sono date da questo dono, da questa capacità che è anche anelito infinito. Per questo è anche sorgente della sua inquietudine. Possiamo cioè soffrire e gioire più di tutti gli altri esseri viventi. Siamo infatti sì finiti, ma con dentro un'ineliminabile fame di infinito. Dovrebbe già da questo risultarci chiaro che l'uomo è non solo simile a Dio, ma è fatto per Dio. Poiché dunque siamo esseri pensanti e liberi, la questione della verità è per l'uomo di fatto una questione, per così dire, obbligatoria. Infatti non possiamo non pensare e non possiamo non volere, non decidere. Anche se ci sforzassimo di non pensare e di non scegliere, sarebbe anche questo un pensare e uno scegliere. Fin dall'adolescenza ci piace avere le nostre idee e fare le nostre scelte, poiché dobbiamo essere noi stessi, e ciascuno di noi è unico e irripetibile. Crescendo però, pensando cioè più in profondità, ma anche attraverso esperienze positive o negative, ci rendiamo conto che non è solo importante che le idee e le scelte siano nostre, ma soprattutto che siano giuste, cioè vere. Non basta cioè avere le proprie idee e fare le proprie scelte, ma abbiamo bisogno di avere idee vere e di fare scelte giuste, perché un'idea sbagliata può essere rispettabile, ma in realtà non corrisponde alla realtà. Una scelta sbagliata esprime sì la mia libertà, ma in realtà non mi edifica, mi rovina. Quante volte facciamo infatti l'esperienza che una scelta anche più facile e immediatamente più allettante in realtà poi ci ha lasciato vuoti e delusi. E invece scelte magari più difficili e immediatamente richiedenti sacrificio ci hanno poi colmato di gioia e realizzati davvero. Per questo la questione di che cosa sia vero e giusto, quale sia la verità e l'autentico bene, è quella apparentemente più astratta, ma in realtà è quella più decisiva dell'esistenza. E tutto ne dipende. Solo la verità ci edifica davvero, ci rende cioè veri uomini. Può sembrare strano, specie in una cultura fondamentalmente soggettivistica e relativistica come la nostra, ma è più importante amare la verità che le proprie opinioni. Volersi davvero bene, cioè amare davvero la propria vita, e conseguentemente poter desiderare anche l'autentico bene dell'altro, richiede di cercare e seguire la verità. Continuare a vivere con un secondo me e a modo mio, se mi va, fin quando mi va, senza una sincera ed appassionata ricerca della verità, ci mette nel serio pericolo di fallire la nostra esistenza, ora e per l'eternità. Dobbiamo però sinceramente riconoscere che, se è vero che siamo fatti per la verità e il bene, è anche vero che questo cammino non è facile e siamo continuamente tentati anche dalla falsità e dal male. Perché? Perché è più facile lasciarsi andare, vivere senza pensarci, fare le cose come vengono, seguendo quello che fanno altri o le nostre stesse voglie del momento. Scoprire e vivere la verità è bello e ci edifica davvero, ma non è facile. Possiamo avvertire perfino un'interiore resistenza alla verità. Pur essendo fatti per la verità, possiamo paradossalmente averne perfino paura. Questo non solo o non tanto perché sia difficile trovarla, ma perché talora riconoscere la verità vuol dire ammettere che dobbiamo cambiare qualcosa della nostra vita, e questo può essere difficile. Può inizialmente scoraggiarci e farci preferire le tenebre alla luce. Se però vogliamo davvero bene alla nostra vita, se ci sta davvero a cuore la felicità autentica della nostra esistenza, dobbiamo amare la verità più delle nostre opinioni e desiderare il nostro autentico bene più del nostro comodo. La verità più importante. L'uomo è fatto per la verità. E per questo gode della verità. All'inizio c'è un fondamentale stupore, potremmo dire ontologico, da recuperare continuamente, se vogliamo davvero essere uomini. Vediamo infatti come l'uomo sia l'unico essere che si meraviglia, che prova stupore per tutte le cose e per il suo stesso esserci. Che le cose esistano, che siano così straordinarie, e soprattutto che io stesso esista non può essere lasciato nell'ovvio. L'abitudine può corrompere anche le cose più belle, come una ruggine che distrugge pian piano tutte le cose e rende la vita banale. Prima o poi devo svegliarmi, prendere coscienza che esisto, che non c'ero e mi trovo come gettato nell'esistenza, e che mi trovo in un universo spettacolare, che mi precede con la sua esistenza e il suo ordine stupefacente di leggi armonizzate tra loro. Solo se mi stupisco posso cominciare a chiedere e iniziare così il percorso della scoperta della verità. Anche la scienza, la filosofia, l'arte e perfino la religione partono da qui. È una ricerca che, come abbiamo osservato, non è mai sazia, non è però inutile, anche se tende verso una verità infinita. Ed è una ricerca mediante la quale l'uomo diventa, per così dire, sempre più uomo. Per questo, da quando è apparso sulla Terra, quella dell'uomo non è più un'evoluzione biologica, ma una evoluzione culturale. Ovviamente non tutti hanno questo desiderio con lo stesso grado di intensità, dipende anche dal grado di intelligenza e di sensibilità, ma almeno un poco sicuramente e necessariamente sì, perché non esiste un uomo che non si sia mai domandato un perché, né potrebbe vivere davvero la vita e le cose della vita senza un significato. Così come non potrebbe vivere neppure un istante da scettico, cioè con il sospetto che ogni conoscenza sia falsa. Il campo del sapere è oggi talmente vasto che anche una mente geniale come quella di Leonardo non potrebbe ovviamente tutto abbracciarlo. Evidentemente su alcune questioni, come quelle che ineriscono alla nostra professione, dobbiamo essere particolarmente competenti. Non è però chiesto a tutti di sapere certe cose. Noi siamo più competenti in certi rami del sapere e per altre verità ci fidiamo di chi è in esse più competente. Qualcuno con particolare passione e genialità, e magari senza alcun interesse immediato, dedica perfino l'intera vita per la scoperta di una verità, di cui poi milioni o miliardi di persone potranno godere. Anche un piccolo prodotto della tecnica, che usiamo continuamente nelle nostre giornate, è partito da uno stupore, ha richiesto secoli di ricerche, anni di studi, gente geniale che ha pensato. Si è domandata il perché delle cose, rompendo l'ovvietà con cui viveva la maggior parte della gente, e lo ha scoperto, permettendo poi ad altri di scoprire nuovi perché. Nella nostra ricerca della verità, ci sono semplici curiosità, ma anche questioni più urgenti e perfino alcune da risolvere necessariamente. Esistono cioè delle questioni così decisive per l'esistenza sulle quali, pur essendoci anche in questo caso degli specialisti, non possiamo essere ignoranti o superficiali, pena il fallimento della nostra stessa vita. Ci sono infatti verità più importanti e decisive di altre, su cui sarebbe veramente sciocco e perfino tragico andare avanti per sentito dire, secondo le mode, così fan tutti, i desideri o le sensazioni del momento. Per la ricerca intellettuale, conoscere significa andare più in profondità, risalire dagli effetti alla causa, come diceva già Platone. Una verità è tanto più importante quanto più profondo è il suo livello e nello stesso tempo quante più cose riesce a spiegare e unire. La penna scivola dalle mie mani e cade sul tavolo. Se mi fermo all'osservazione, questo è ovvio e banale. Se invece mi stupisco e mi chiedo il perché, come Newton, scopro la forza di gravità e la legge che la regola. E questo spiega non solo la caduta della mia penna, ma quella di tutti i gravi, anzi scopro una legge fondamentale dell'universo. Se poi continuo a stupirmi e a domandarmi il perché, posso arrivare a capire come sia possibile che in questo universo tutto esista e si muova secondo leggi rigorose, così precise che la scienza moderna può esprimere in termini addirittura matematici. È la questione più difficile, ma anche la più importante. Perché in fondo tutte le altre verità ne dipendono. È quella del perché di tutte le cose, cioè della causa prima di tutto l'essere. Non per nulla il pensiero filosofico nasce subito come ricerca dell'archè, già i presocratici la ricercano, anche se la identificano ingenuamente ancora con gli elementi della natura. Già Platone, che per questo li chiama i fisici, capisce invece che questa causa prima è trascendente, e intelligente. Come si può capire, questo è in fondo il problema di Dio, che per definizione stessa è colui da cui tutto dipende. Questo può sembrare questione certo interessantissima, ma per addetti ai lavori, per filosofi. Se però in gioco metto invece la mia vita, cioè se mi stupisco del mio stesso esserci e mi domando che senso abbia la mia vita, la questione ritorna, questa volta con un'urgenza esistenziale ineliminabile. Certo, anche questa potrebbe sembrare una questione astratta, così globale e apparentemente non concreta, da lasciare il tempo che trova. In realtà, se non so da dove vengo e dove vado, non so in fondo perché vivo. Ma se non so perché vivo, faccio fatica a capire il senso vero anche delle singole cose della mia vita e della mia giornata. Questa domanda sul senso ultimo della vita è però in fondo ancora la questione di Dio. La questione di Dio. Le vie del Signore sono infinite, come si dice anche proverbialmente. Ed è vero. Ci sono cioè infiniti modi con cui un uomo a un certo punto della sua vita può accorgersi non solo che Dio c'è, ma che è cercato personalmente da Lui, che Dio gli parla, lo chiama, lo ama. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, dice Gesù stesso, Giovanni 15,16. Non ci sono limiti alla grazia di Dio, che vuole che ogni uomo lo conosca, si accorga del suo amore, lo segua e si salvi. L'unico limite che Dio stesso rispetta è quello della nostra libertà. Se uno proprio non gli vuole aprire la porta, egli non entra, Apocalisse 3,30. Ci sono certo molti casi in cui Dio entra improvvisamente e con irruenza d'amore nella vita di un uomo, trasformandolo completamente. Conosciamo ad esempio come Cristo risorto capovolse in un istante la vita di Paolo, trasformandolo da persecutore dei primi cristiani ad apostolo delle genti. Atti 9,1-19, 26,9-18, Galati 1,11-24. Questo può accadere anche oggi, e l'interessato lo sperimenta misteriosamente ma con assoluta certezza. Si pensi ad esempio al caso di A. Ratisbonne o a quello più recente di A. Frossard. Normalmente però occorre non solo un'apertura d'animo e di intelligenza per poter iniziare un percorso di ricerca che conduca a Dio, ma pure qualcuno che ci aiuti, intellettualmente, spiritualmente ed esistenzialmente, a muovere i passi in questo cammino, tenendo conto anche dei nostri dubbi e delle nostre difficoltà. Occorre soprattutto qualcuno che ci annunzi Gesù Cristo, perché, come dice San Paolo, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in Lui? E come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che l'annunzi? Romani 10,14. Abbiamo bisogno di testimonianze forti, ma anche semplicemente di amici che condividano con noi questo cammino, nell'esperienza bellissima della fraternità cristiana. Esistono dunque infiniti modi per arrivare alla scoperta di Dio. E, se vogliamo, abbiamo moltissimi indizi per intraprendere questo percorso ed arrivare a dare il nostro assenso. Ad esempio, l'uomo di ogni tempo e di ogni civiltà, in un modo o in un altro, ha sempre creduto in Dio. Anzi, l'uomo non ci ha solo creduto, ma ha sempre sentito come decisivo il rapporto con Lui, da cui probabilmente l'etimologia della parola religione, cioè un legarsi a Lui, l'ha sempre pregato. Ha cercato di conoscerne la volontà, gli ha obbedito, tanto da offrirgli il meglio di sé, come dimostra ogni civiltà, perfino nella propria arte. Ci sono stati e ci sono innumerevoli modi di concepire Dio, da chi adora una pietra o il sole alle tre grandi religioni monoteiste. Ma che Dio esista e tutto dipenda da Lui è una fede universale, come del resto la consapevolezza che l'uomo abbia un'anima immortale e sia fatto per l'aldilà. Infatti il rapportarsi coi morti è antico e universale quanto l'uomo. Quindi non dovrei dire con troppa leggerezza e disinvoltura che Dio non c'è. Infatti se io oggi non credo in Dio, di fatto non credo in ciò in cui l'uomo ha sempre creduto. Pur in modi diversissimi. Essere atei è di fatto un cambiamento radicale, rispetto a tutta la storia dell'umanità, un capovolgimento totale di ciò che l'uomo è sempre stato. Rischioso dunque, ma certamente lecito. Perché avrebbero potuto tutti sbagliarsi fino ad oggi? Improbabile, ma possibile. La verità non dipende infatti dal consenso. Dovrei inoltre rendermi conto, come fa seriamente Nietzsche, il filosofo forse più seriamente ateo della storia del pensiero, che negare Dio significa rendere tutto, compreso me stesso, casuale e senza senso, proveniente dal nulla e fatto per il nulla, un prodotto infinitesimale ed estremamente breve di una cieca energia vitale, senza scopo alcuno, senza un vero fondamento e punto di riferimento per orientarsi tra vero e falso, tra bene e male. L'ateismo potrebbe provocare la fine dell'uomo e dell'umanità, almeno come sono stati intesi fino ad oggi, riconosce lucidamente Nietzsche. Dunque è una negazione estremamente rischiosa, sia a livello personale che sociale. La questione di Dio, contrariamente a quanto oggi si cerca di far credere, relegando la religione tra i fatti solo intimi e privati, è infatti strettamente legata alla questione dell'uomo. Non è una semplice curiosità sul soprannaturale, sull'aldilà. La questione religiosa non è mai stata, in nessuna civiltà, una semplice questione di culto o esclusivamente intima e di coscienza, pur dovendo necessariamente sgorgare da lì. E per questo non è né vietabile né obbligabile, come riconosce quel primo fondamentale diritto dell'uomo che è appunto la libertà religiosa. È in fondo la questione del senso stesso della vita, casuale o creata, fondamentalmente sola o amata, destinata al nulla o fatta per l'eterna felicità di Dio. Noi vediamo infatti che, contrariamente a quanto si potrebbe superficialmente credere, quando un uomo capisce davvero che Dio c'è o quando comincia a non credere più in Dio, tutta la sua vita prende una direzione o un'altra, e anche le singole scelte, quelle decisive della vita come quelle quotidiane, cambiano la loro direzione e la loro intenzione. Lo si vede anche oggi, nella vita di un giovane, quando cambia in un senso o in un altro questa opzione fondamentale. Tra l'altro, abbiamo un tale bisogno di infinito e di assoluto, che se neghiamo Dio, l'assoluto vero, infinito, giungiamo di fatto ad assolutizzare altro, che è però finito. Se non adoriamo Dio, arriviamo cioè inesorabilmente e magari inconsciamente a crearci e ad adorare un idolo, a credere che qualcosa o qualcuno possa darci la vera felicità. Che sia cioè il nostro bene assoluto, magari il denaro, il piacere, la carriera, una persona, una cosa, o magari ci illudiamo perfino di essere Dio noi stessi, cioè i creatori di noi stessi, gli inventori a piacimento del bene e del male. Fino a quando ne scopriamo la menzogna, magari per noia o per una dura prova che la vita ci presenta e che ci fa aprire improvvisamente gli occhi sulla nostra pochezza e insieme sul nostro infinito bisogno di felicità, di vita, di bellezza, di amore, che nessuna cosa limitata può colmare. Esiste infatti nella vita di ognuno, anche se non ce ne accorgessimo, un senso ultimo, un'idea di felicità suprema e di verità fondamentale, da cui tutto dipende. Se non troviamo Dio ci facciamo inesorabilmente un idolo, cioè ci aggrappiamo a qualcosa o a qualcuno come se fosse il nostro tutto. Potremmo dire che non si vive senza un numero uno nella classifica dei nostri valori, un assoluto, un tesoro per il quale, pur di non perderlo, saremmo disposti a lasciare anche tutto il resto. Se però ci facciamo un idolo, un falso Dio, se assolutizziamo ciò che in realtà è relativo e finito, prima o poi rimaniamo vuoti e delusi. Non dimentichiamo inoltre che la questione del tempo che passa, l'obbligo inesorabile di compiere delle scelte che ci edifichino davvero, la propensione verso l'infinito che ci caratterizza, l'inesorabilità della morte con il nostro apparente fallimento totale, la questione dell'eternità, con la possibilità senza ritorno di una vita eternamente beata o eternamente dannata. La grande scommessa, direbbe Pascal, tutto questo è il vero grande problema della vita umana anche se ci sforzassimo di non pensarlo. Rimuoverlo sarebbe dannoso, anche perché di fatto prima o poi emerge in tutta la sua drammaticità e concretezza. Ma tutte queste questioni sono evidentemente ancora legate alla questione di Dio, se esista o no, chi sia e per qual fine ci abbia creati. Di fatto dunque la negazione di Dio, anche se possiamo spavaldamente dichiararla perfino su una t-shirt, in realtà è esistenzialmente drammatica. Consciamente o inconsciamente, Dio, l'infinito, è il più grande desiderio dell'uomo. Ma questo fondamentale nostro anelito è vero, perché siamo stati creati da Lui e per Lui, oppure è una passione inutile, come afferma il filosofo ateo contemporaneo J.P. Sartre. La più grande prova che Dio esiste, ma che qui non analizzeremo, è evidentemente l'esistenza di Gesù Cristo, perché in questo caso, unico nella storia, anche nel panorama di tutte le religioni, si presenta un uomo che ha per così dire la pretesa non di essere un profeta o un illuminato di Dio, come dicono di sé i fondatori delle religioni, ma di essere Dio stesso, l'unico vero Dio, fatto uomo. Se così fosse, come è, Dio si è fatto allora addirittura visibile, incontrabile, ascoltabile, toccabile, come una presenza tra noi. La fede cristiana è questa, nella sua assoluta originalità. Perché fede, in senso cristiano, non è credere semplicemente che Dio esista, questo è comune a tutte le religioni, o che abbia parlato attraverso qualche uomo, come Buddha per i buddhisti o Maometto per i musulmani, o gli stessi profeti dell'Antico Testamento per ebrei, cristiani e musulmani, ma credere che si sia fatto presenza fisica tra noi. Questa è la questione di Gesù di Nazareth. Guardando Lui si vede Dio. Seguendo Lui, entrando in comunione con Lui, ogni uomo di ogni tempo può entrare nella vita infinitamente felice ed eterna di Dio, ed è ciò per cui ognuno è stato creato. Molti certo, anche di recente e talora in modo assai banale, hanno tentato di screditare la storicità di Cristo, la sua divinità, la sua risurrezione, l'attendibilità dei Vangeli. In realtà gli studi in proposito sono innumerevoli ed estremamente seri. È però già impressionante osservare come fin dall'inizio, nonostante la sua condanna a morte di croce, non sia mai stato possibile sbarazzarsi di Gesù di Nazareth. Ed è sufficientemente ragionevole ammettere, oltre che per le sue stesse parole, che non lo sarà mai. Basterebbe dare uno sguardo alla storia di questi due millenni, ma anche solo a quella del secolo appena trascorso, dove potenti ideologie e sistemi sociali, economici e politici hanno tentato in ogni modo di farlo, provocando anche 40 milioni di morti cristiani, senza riuscire a sopprimere il cristianesimo. Rimane cioè il più grande enigma della storia come questo uomo, vissuto 2000 anni fa in una regione sperduta dell'impero romano, in soli 3 anni circa di predicazione, senza scrivere nulla, senza raggiungere alcun potere, anzi morendo di una terribile condanna a morte riservata ai malfattori, croce, una fine che umanamente sembra determinare non solo il fallimento totale della sua missione ma l'apparente smentita della sua pretesa di essere Dio. Non si possa cancellare dalla storia e dopo 2000 anni abbia ancora più di 2 miliardi di seguaci. Potremmo dire che questo è il più grande interrogativo che percorre la storia e che bussa alla coscienza di ogni uomo di ogni tempo, le cui conseguenze sono decisive per la vita e l'eternità. Chi era quell'uomo? Davvero Dio? O il più grande ingannatore della storia? Possiamo trovare risposta nelle sue parole, nei suoi miracoli, ma la questione più decisiva per capire è chiederci cosa sia avvenuto 2 giorni dopo la sua morte. Così da far passare i suoi discepoli dalla quasi generale delusione totale. Se era Dio non poteva morire e morire così. Dunque siamo stati ingannati, ad un entusiasmo incontenibile, che trasforma improvvisamente tutta la loro vita, rendendoli coraggiosi testimoni di Lui, fino a morire pur di non tradirlo. Dicono di aver incontrato più volte il Cristo risorto, per 40 giorni, dopo la sua morte e sepoltura. Dunque è vivo, per sempre, e ha definitivamente sconfitto la morte, per tutti. Dunque era tutto vero, Lui è davvero Dio, la verità assoluta, l'unico salvatore dell'uomo. Come spiegare questo dato storico, le cui conseguenze giungono fino a noi e non si fermeranno mai fino alla fine del mondo? Allucinazioni? Ma gli apostoli erano e continueranno ad essere persone normali. Menzogna? Ma come è possibile che si dia la vita e si muoia? Gli apostoli, tranne Giovanni, sono tutti morti martiri, cioè uccisi pur di non tacere o rinnegare Gesù Cristo. Per una cosa che si sa essere falsa, per una persona che si sa non essere Dio perché morto in croce e definitivamente sepolto? Davvero difficile tentare un'altra risposta a quella che Cristo sia veramente risorto ed essi lo abbiano davvero toccato con mano. La risposta quindi è che Gesù di Nazaret è davvero Dio. L'unico vero Dio, Dio con noi e l'unico salvatore dell'uomo. Ora dunque conosciamo davvero Dio. Ora sappiamo perché siamo stati creati e perché viviamo. L'incontro con Lui, possibile dunque anche oggi, il seguire Lui e la sua parola, l'entrare in comunione d'amore con Lui, tutto questo provoca il più grande cambiamento della vita. La vera gioia dell'uomo e l'inizio fin d'ora della vita eterna beata. Milioni di convertiti, e specialmente migliaia di santi, ci testimoniano questo. Milioni di martiri, che significa infatti, testimoni, in 2000 anni, ci testimoniano perfino col sangue che è meglio morire, piuttosto che perdere Cristo. Perché solo in Lui c'è la vita vera e la vita eterna. Tra gli altri indizi per scorgere l'esistenza di Dio potremmo così raccogliere quello dato dai miracoli, soprattutto quelli compiuti da Gesù durante la sua missione terrena, ma anche gli innumerevoli altri che sono accaduti e che continuano ancora oggi ad accadere. Negarli a priori sarebbe un atteggiamento dogmatico e irrazionale, perché il primo atto della ragione è guardare ai fatti e non rifiutarsi a priori di esaminarli. La stessa scienza sperimentale, che oggi con più consapevole umiltà deve intanto rifarsi al principio di falsificabilità, di fronte a queste esperienze straordinarie. Miracolo significa infatti ciò che meraviglia, in quanto fenomeno comunque al di fuori dall'ordinario, che spesso può rigorosamente e obiettivamente analizzare e studiare. Al massimo può onestamente solo affermare di non conoscerne la causa, naturale, soprannaturale, oggi ignota ma domani forse nota. Dunque è anche razionalmente lecito vedervi l'intervento stesso di Dio e non è pienamente razionale escluderlo. Potremmo poi esaminare le esperienze eccezionali dei mistici, così come delle apparizioni di Gesù o di Maria Santissima, specialmente quelle attentamente studiate e poi riconosciute come autentiche dalla Chiesa, che pur non obbligano la fede, e almeno chiederci se sia poi così facile ridurle a suggestioni, allucinazioni o quant'altro. Lasciamo qui però, anche se a malincuore, questi e altri indizi, per concentrare ora un poco la nostra attenzione su un altro percorso, quello della possibilità della nostra ragione, che è comune a tutti gli uomini, di risalire fino alla scoperta di Dio, muovendo dall'osservazione della realtà. La questione di Dio per la ragione. Questa possibilità della nostra ragione, quella che è comune a tutti gli uomini, di risalire fino alla scoperta di Dio, muovendo dall'osservazione della realtà, è estremamente importante. Sia per la propria vita, Se già crediamo in Lui, per capire meglio che è vero, se ancora non crediamo, per cominciare ad aprirsi a Lui, sia per un vero dialogo tra credenti e non credenti. Infatti, se potessi parlare di Dio solo dicendo che io ci credo perché lo sento, cioè a livello solo interiore ed emotivo, sarebbe difficile comunicarlo e discuterne. Un altro potrebbe dire che invece lui non lo sente. E tutto sarebbe finito lì. Tra l'altro, fondare la fede in Dio solo su un livello emotivo potrebbe metterla in serio pericolo, qualora perdessi ad esempio per un certo periodo, cosa possibile anche nei santi, questa percezione emotiva ed interiore di lui o mi capitasse nella vita qualcosa che potrebbe darmi l'impressione di essere abbandonato da lui o che addirittura appunto non esista. Ma se ho dei motivi razionali per affermare che Dio c'è, oltre a rafforzare la mia fede in Lui, è proprio vero che c'è, indipendentemente da quello che ora sento. So anche comunicarla a chiunque voglia usare la ragione per fare questa scoperta. Non esiste infatti un vero ragionamento da credente ed un vero ragionamento da ateo, ma esiste solo un vero ragionamento. Se è corretto per tutti, e se non è corretto, non è corretto per nessuno. E un ragionamento corretto può essere verificato nella sua esattezza da chiunque onestamente voglia farlo, se non ha paura della verità. Anzitutto dobbiamo chiederci, è proprio vero che ciò che è invisibile è inesistente o comunque rimane sconosciuto, al massimo solo creduto? No, invisibile non significa sempre inesistente. Certo, se credo a qualsiasi cosa, pensando come davvero esistente ogni cosa che mi viene detta o che immagino, sono un ingenuo credulone. Se da bambino credo che a Natale sia Gesù bambino, o più laicamente, Babbo Natale, a portare i doni, va bene. Se ci credo ancora quando sono in università, sono imbecille. Possono però esistere realtà invisibili. Possono essere solo ipotizzate o credute. Esistono ad esempio altri pianeti come il nostro attorno ad un'altra stella. Ci saranno anche le forme di vita, o possono essere anche trovate da un ragionamento. Oggi ad esempio sappiamo che esistono un sacco di cose che prima non sapevamo che esistessero. Schiaccio il pulsante del telecomando e cambia il canale della TV. Non ho visto i raggi infrarossi che sono partiti dal telecomando e sono giunti al televisore. Gli scienziati li hanno scoperti. I tecnici li hanno applicati al telecomando per trasmettere al televisore. Mi fido. E in effetti sono sicuro che comunque qualcosa è invisibilmente partito dal mio telecomando. Perché ne vedo gli effetti. Il canale è cambiato. Metto a scaldare il latte nel forno a microonde. Accendo. Non vedo niente, né una fiamma, né una resistenza elettrica che diventa incandescente. Eppure dopo qualche secondo il latte è caldo. Non ho visto niente che potesse scaldare il latte. Gli scienziati hanno scoperto le microonde. I tecnici le hanno applicate al forno. Mi fido. E in effetti sono comunque sicuro che una causa sia pur invisibile c'è stata. Perché ne vedo gli effetti. Il latte era freddo ed ora è caldo. Cosa avrebbero pensato solo 100 anni fa? Prima non si sapeva. E uno poteva credere all'ipotesi che non c'erano infrarossi o microonde, e un altro all'altra ipotesi, risultata poi vera, che esistono. Ma se uno le avesse negate a priori sarebbe stato sciocco e presuntuoso. Negare a priori l'invisibile non è dunque pienamente razionale. Noi abbiamo delle evidenze immediate, che non hanno bisogno di ragionamenti, basta osservare la realtà, ricordiamo. Per sapere quante persone ci sono effettivamente in casa basta guardare. Abbiamo però anche delle evidenze mediate, cioè che partono sempre dall'osservazione della realtà, ma che hanno bisogno di un ragionamento per essere scoperte, come appunto che in questo momento esistono microonde nel mio forno perché il latte si è scaldato. La ragione può infatti non solo conoscere la realtà, ma anche e soprattutto passare dalla conoscenza degli effetti alla conoscenza della causa. Come la nostra intelligenza. Abbiamo osservato, è assolutamente certa che l'essere non possa coesistere col nulla, in casa c'è qualcuno o nessuno, ci sono 3 persone o non ci sono 3 persone. Non può essere vera l'una e l'altra affermazione, è altrettanto certa che il nulla, proprio perché è nulla, non opera nulla. Per cui, se qualcosa accade, c'è sempre una causa, cioè c'è qualcosa, essere che provoca quel fatto. E tale causa deve essere anche adeguata, proporzionata. Perché deve spiegare tutto, non deve cioè lasciare nulla al nulla. Se una sedia si sposta, è perché c'è qualcosa che la spinge, ma non può essere una formica, perché non avrebbe la forza sufficiente per spostarla. Non sarebbe cioè una causa adeguata a provocare tutto quell'effetto. Su questo principio assoluto, che il nulla non fa nulla, è un principio filosofico, metafisico, si basa non solo il buon senso, ma anche la scienza. Tutto il lavoro della scienza si muove da questa certezza assoluta, altrimenti non inizierebbe neppure a studiare un fenomeno. Tutta la ricerca è tesa ad individuare quale causa specifica. Legge, forza, abbia un fenomeno, ma che abbia una causa proporzionata è invece ovvio. Le scoperte scientifiche sono sicure, ma non sono per sé assolutamente certe. Hanno il pregio di poter essere mostrate non solo con un ragionamento, ma anche con gli esperimenti, verificabili da tutti. La scienza moderna è infatti sperimentale. E proprio perché non possiamo sperimentare il tutto e il sempre, ci possono essere progressi e perfino smentite. È invece assolutamente certo che ogni effetto ha una causa. Ed in questa evidenza assoluta non ci sono né progressi né possibilità di smentita. Molti però pensano che non si possa andare oltre questo livello scientifico. In realtà non è così, perché la ragione umana, pur essendo limitata, in base proprio a quell'evidenza prima per cui il nulla non è essere e non produce essere, il nulla non fa nulla. Non solo può ma deve andare oltre, fino a trovare la causa prima di tutte le cose, quella causa adeguata senza la quale l'universo stesso non ci sarebbe e non sarebbe quello che è. Che tale causa ci sia non ha bisogno di essere sperimentata in laboratorio, perché gli effetti ci sono, l'universo c'è. Per la ragione, la questione di Dio si pone in questi termini. Il punto di partenza della ragione, dovendo necessariamente muoversi dall'esperienza, è che Dio non si vede. Sembra facile dire che allora non c'è. In realtà, abbiamo visto, anche dire che non c'è è un atto di fede, perché non ho la prova che non c'è. Inizialmente sarei più onesto a dire, non so, non possiamo dire niente di più, poiché non si vede. Alcuni lo sentono e ci credono e altri non lo sentono e non ci credono. Alcuni si sentono attirati da lui ed altri se ne sentono perfino infastiditi come da un ostacolo alla propria libertà e al godimento della vita. Altri ancora cambiano continuamente posizione. Se gli chiedono qualcosa e la fa allora vuol dire che c'è, se invece non la fa o le cose vanno male allora vuol dire che non c'è. Oggi è poi diffusa la religione fai da te, Dio c'è, ma a modo mio. Senza bisogno di capire, di fede, di rivelazione, di chiesa, di fastidiose mediazioni. In realtà c'è una grande confusione. Molti pensano che il problema stia così e che in fondo non si possa davvero risolvere, tanto meno razionalmente. Pochi però oggi sanno che possiamo scoprire che Dio c'è, e perfino qualcosa di ciò che è, anche con la sola ragione, se ragiona bene, indipendentemente dal fatto che uno a priori già ci creda oppure no. Questa possibilità può sembrare totalmente preclusa e presuntuosa, perfino a molti credenti, tanto oggi siamo imbevuti di una mentalità relativista e scientista, ma in realtà c'è. È sicura e questo percorso puramente razionale può essere fatto anche da chi non crede e giungere alla certezza che Dio c'è. Infatti le nostre conoscenze razionali non si limitano all'esperienza empirica, ciò che si vede, e non si fermano neppure al livello scientifico. La scoperta delle leggi scientifiche che regolano i fenomeni, ma possono raggiungere anche la causa prima di tutte le cose. La maggior parte della gente e perfino degli studenti universitari, che pur dovrebbero saperne di più, almeno in base agli studi filosofici, se fatti seriamente, pensa che la questione di Dio non sia razionalmente risolvibile, e quindi sia perfino vano porsela. Anzi, molti pensano che proprio gli studi scientifici vadano a smentire pian piano tutte le credenze religiose, rendendo così sempre più falsa l'ipotesi che Dio esista. Solo gli ignoranti e gli ingenui potrebbero ancora continuare a credere in queste cose. Si pensa che una persona razionale e di cultura non possa più credere in Dio, anche se poi molti laureati e uomini di cultura, che fanno tanto gli atei e gli scettici, non si vergognano di andare da maghi, di credere negli oroscopi, in energie sconosciute, o in filosofie e religioni esoteriche. Questa è stata in realtà una credenza diffusasi a fine Ottocento, quando lo scientismo, e positivismo, credeva che dopo il tempo dei miti e delle religioni e dopo quello delle filosofie, fosse finalmente sorto il tempo della scienza, a Comte, che avrebbe spiegato progressivamente ogni cosa, rendendo appunto sempre più inutile e falsa l'idea che Dio esista e tutte le convinzioni religiose, Bibbia compresa. Nonostante l'alta cultura abbia in genere abbandonato da tempo questa presuntuosa e possiamo dire dogmatica posizione, il livello di divulgazione culturale più basso, per non parlare di quanto predicato capillarmente dagli strumenti di comunicazione sociale, è spesso ancora fermo a questo pregiudizio. In realtà basterebbe una semplice indagine obiettiva sulla storia del pensiero filosofico, almeno fino alla fine del XIX secolo, ma anche oltre, così come sulla storia della stessa scienza moderna sperimentale, per rendersi conto che la maggior parte dei filosofi e degli scienziati sono credenti in Dio. Perfino tra i premi Nobel viventi i credenti, o comunque chi non esclude che Dio possa esistere, sono una schiacciante maggioranza. Anche se in televisione e sui giornali vanno quasi sempre i pochi non credenti. In realtà, infatti, è proprio il progresso scientifico, con le sue sempre più straordinarie scoperte, a rendere per così dire sempre più chiaro che Dio c'è, come vedremo più avanti. E non perché ci siano ancora troppe cose ignote, non nel senso cioè che lo spazio della fede in Dio sarebbe quello lasciato ancora dalla non conoscenza della spiegazione scientifica, e quindi progressivamente sostituito da essa, ma proprio a motivo delle scoperte scientifiche, cioè della scoperta di un cosmo che ci si svela sempre più complesso ed ordinato. Osserviamo dunque, sia pur brevemente, qualcuno dei molteplici percorsi che la ragione può fare per raggiungere la certezza che Dio c'è, muovendosi proprio dall'osservazione della realtà. Se l'universo ha un'età, ci deve essere un essere al di là dell'universo. Proprio perché nulla si crea dal nulla, ogni cosa che ha un inizio significa che ha una causa fuori di sé, cioè presuppone un altro essere per aver iniziato ad essere. L'idea di un inizio assoluto, di ogni forma di essere, è infatti assurda, perché sarebbe come dire che il nulla ad un certo momento ha fatto qualcosa. Visto che ora qualcosa c'è, c'è l'essere e non il nulla, dunque qualche essere c'è sempre stato. O l'universo stesso o un altro essere al di fuori di esso, che non solo c'è sempre stato ma non ha bisogno di una causa esterna per esserci. Possiamo dire che è causa di sé, ma è forse meglio dire che non ha bisogno di causa in quanto è e non diviene. Proprio la scienza ci dice però oggi che quasi sicuramente l'universo ha un'età. Tutte le galassie che compongono l'universo, circa 200 miliardi, composte a loro volta da 100-200 miliardi di stelle ciascuna, sarebbero sorte circa 13,7 miliardi di anni fa da un unico punto, Big Bang. Il loro essere in fuga le une dalle altre, come una sfera in espansione, permette questo calcolo. Nell'universo c'è ancora oggi come l'eco di quello scoppio iniziale, la radiazione di fondo. Se questa scoperta fosse confermata, dovremmo riconoscere allora che ci fu un vero e proprio inizio totale dell'universo. Da lì sarebbe scaturita ogni energia. Prima ancora della formazione del primo atomo di idrogeno e ovviamente prima ancora della formazione della materia. Si calcola persino la densità d'energia e l'incredibile temperatura di quell'istante iniziale. Inoltre, già da quel momento vediamo all'opera quelle leggi, chimiche, fisiche, che provocheranno l'evoluzione cosmica e che ancora oggi regolano tutto l'universo. Se così fosse davvero, se tutto l'universo ebbe un inizio, dovremmo necessariamente concludere che prima dell'universo. Anche se il termine prima non è più utilizzabile non essendoci neppure il tempo prima dell'universo, perché il tempo è una caratteristica dell'universo, c'era il non universo, cioè il nulla di universo. Non universo non significa ovviamente il nulla assoluto, perché il nulla assoluto non avrebbe prodotto nulla. Ricordiamo che questa è la base indiscutibile di ogni ragionamento e di ogni scienza. In altri termini, se l'universo prima non c'era e poi c'è, non può essere scaturito ovviamente dal nulla, ma da un altro essere, che sta alla sorgente del suo stesso essere. Questo essere che trascende l'universo e che è causa dell'universo corrisponde al concetto Dio, che significa appunto l'essere da cui tutto dipende. In altri termini, il Big Bang sarebbe il frutto dell'atto creativo di Dio. Se cioè Dio non ci fosse, non avrebbe mai potuto esserci questo universo. L'universo è in continua trasformazione. Dunque dipende da un essere eterno. Non solo l'inizio di una cosa richiede una causa esterna, ma il suo stesso divenire, trasformarsi, rimanda ad altro, perché nessuna cosa può darsi ciò che non ha. Infatti ogni cosa che si trasforma ha una causa fuori di sé, cioè presuppone un altro essere. Ad esempio, se mi chiedo come mai esiste una lampadina, visto che non c'è da sempre, devo risalire alla ditta che l'ha costruita. Ma se mi domando come mai fa luce in questo momento, devo risalire ad una centrale elettrica che in questo momento deve inviarmi energia elettrica, altrimenti non ci sarebbe questo effetto. Tra l'altro, se l'operaio o la ditta che l'ha costruita termina la sua attività, cioè termina la causa del suo inizio, la lampadina continua ad esistere. Se invece la centrale elettrica termina di esistere o di mandare corrente, la lampadina si spegne, cioè, se termina la causa termina l'effetto. Questo ci permette di capire che, anche se per ipotesi estrema dicessi che questa lampadina sta facendo luce da sempre, non farebbe ugualmente luce da sé, ma richiederebbe ugualmente la centrale, la lampadina dipenderebbe cioè ugualmente da essa, e dunque la centrale dovrebbe esserci ed essere attiva da sempre. In altri termini, ogni cosa che inizia dipende necessariamente da altro, ma anche una cosa che non avesse inizio, ma fosse in divenire, dipenderebbe ugualmente da altro, anche se la ipotizzassi da sempre. La questione del tempo perde cioè qui di importanza, da quanto tempo c'è questo effetto, perché intanto il problema non cambia col tempo, neppure se lo ipotizzassi all'infinito. Perfino il concetto di automobile è in questo senso ridicolo, perché niente si automuove. Ora, anche nell'ipotesi, mai verificabile, che l'universo esista da sempre, per il fatto che comunque si trasforma, diviene, si muove, dipende da qualche essere oltre sé. Tale essere deve dunque non solo esserci, ma a sua volta non deve divenire, ma deve essere eterno, dove eterno non significa un divenire infinito ma un non divenire. Cioè non un tempo infinito ma un oltre il tempo. Potremmo in questo senso osservare come ogni catena di esseri causati, anche se fosse infinita, continua ancora a dipendere da altro. Cioè una catena di esseri che hanno ricevuto l'essere o un essere che si trasformi da sempre indicherebbero ancora che non sono essi stessi l'essere, senza causa, e che quindi dipenderebbero ancora da questo altro essere. Nessuna trasformazione cioè è davvero spiegata, anche risalendo indietro in una catena infinita, se non si trova una sorgente di tutto il divenire, una sorgente di essere che non derivi da altro il proprio essere e la propria forza. Occorre dunque necessariamente ammettere l'esistenza di un essere che causa ogni divenire, senza a sua volta divenire, altrimenti sarebbe a sua volta causato e il problema sarebbe solo spostato, rimanendo lo stesso, senza soluzione. Invece una soluzione ci deve essere perché di fatto io vedo come esistente questo divenire. Poiché facciamo esperienza di esseri divenienti, e tutto l'universo diviene, l'intelligenza è costretta a riconoscere che esiste un altro essere, che trascende l'universo, che è causa del divenire e che a sua volta non diviene, è l'essere, indiveniente, fuori dal tempo, eterno. E ciò corrisponde al concetto di Dio, comunque lo si chiami. L'universo è regolato da leggi, dunque dipende da un'intelligenza superiore. Tra i molti possibili percorsi che la ragione può fare per risalire da ciò che sperimentiamo alla sua causa prima, questo è forse il più bello e perfino il più facile a comprendersi. Che l'universo fosse non un caos ma un cosmo, cioè un insieme ordinato, lo avevano già scoperto sia la filosofia greca che la maggior parte delle civiltà antiche. Ma proprio il continuo progresso delle scienze, con le loro sempre più precise scoperte, permette oggi di avere una consapevolezza sempre più grande dello stupefacente ordine che troviamo in ogni cosa, sia nel macrocosmo, ciò che studiano l'astronomia, l'astrofisica, che nel microcosmo, fisica nucleare, subnucleare, per non parlare del miracolo della vita, ciò che studia la biologia, e di quell'essere straordinario che è l'uomo, anche se ci limitassimo agli studi della medicina. Tutto è regolato da leggi rigorose, per questo possiamo fare scienza. Sappiamo oggi che l'universo stesso inizia e si trasforma in base a delle leggi. Non è cioè l'universo a fare le leggi, ma sono le leggi a fare l'universo. Ciò che costituisce sia una stella che un pezzo di carta è sempre un insieme di protoni, neutroni ed elettroni, regolati da leggi ed equilibri rigorosissimi. Il progresso scientifico quindi non diminuisce ma aumenta sempre più la consapevolezza di ciò e lo stupore per questo straordinario ordine e pone con ancora più evidenza la questione di come ciò sia possibile, di quale cioè ne sia la causa, adeguata. Di fronte allo spettacolo cosmico, possiamo fermarci a studiarlo sempre più, cioè a conoscere e spiegare sempre più ogni fenomeno e le sue cause, leggi, cercando di esprimerle in termini obiettivi, addirittura matematici. Questo è il compito di tutte le scienze. Ma possiamo e dobbiamo anche chiederci quale sia la causa prima di questo ordine, come ciò sia possibile. Non risolviamo il problema dicendo che l'universo si struttura pian piano in base a delle leggi, necessarie e in modo casuale. Oltre a dover spiegare da dove derivi già il primo scoppio di luce, dobbiamo spiegare anche da dove derivino le stesse leggi che regolano i fenomeni ed il loro progressivo sviluppo. Allo stesso modo sarebbe un errore, tanto più irrazionale quanto più la scienza scopre questo ordine immenso, continuare a pensare dogmaticamente che tutto questo straordinario ordine possa essere solo il frutto del caso. Nella natura ci possono certo essere fenomeni casuali, il che non vuol dire che non abbiano cause precise, ma che si incrociano casualmente effetti per sé tendenti ad altro. Ma cercare di spiegare tutto l'ordine del cosmo e di ogni sua parte e di ogni sua legge con la pura casualità è assolutamente irrazionale, anche con un eventuale calcolo di probabilità. In realtà, dove c'è ordine c'è intelligenza, C'è cioè una logica e quindi un pensiero. Evidentemente non è intelligente quella realtà stessa che è fatta e si comporta secondo una logica, non lo è neppure la somma di tutti i fenomeni, la cosiddetta natura, ad essere essa stessa intelligente. Intelligenza, come capacità di pensare, richiede una mente, è una facoltà spirituale, che comunque le cose non hanno e neppure l'universo in quanto tale ha. Credere che la natura stessa sia intelligente non è essere moderni, come potrebbe sembrare, ma tornare primitivi, come gli animisti. L'ordine, l'armonia e la finalità che vediamo nelle singole cose e addirittura nell'universo stesso richiedono un'intelligenza trascendente ed infinita, Dio. Dunque la necessità di pensare a questa intelligenza suprema non è data da un'ignoranza scientifica, cioè dal fatto che non sappiamo le cose come stanno, ma al contrario proprio dal fatto che lo sappiamo sempre meglio. Quindi il progresso scientifico, se ci si pone la domanda di fondo sul perché primo, non diminuisce ma aumenta la certezza che Dio esiste. Qualcuno potrebbe pensare. Un tempo pensavano ad esempio che fosse Dio a scagliare i fulmini dall'Olimpo. Poi la scienza ci ha spiegato che il fulmine è una potentissima scarica elettrica dovuta a una differenza di potenziale. Dunque pian piano avremo sempre più spiegazioni scientifiche e sempre meno bisogno di pensare a Dio come causa di tutte le cose. In realtà la scienza scopre sempre più quali siano le leggi della natura, cause immediate dei fenomeni, ma sono proprio queste ad essere create da Dio. E Dio stesso, che pur potrebbe mutarle, come nel caso del miracolo, normalmente le rispetta e le mantiene, così che appunto noi possiamo vederne la regolarità e studiarle. E lascia alla nostra ricerca la loro scoperta. Non c'è dunque Dio direttamente dietro ad ogni singolo fenomeno, anche se può parlarci attraverso ogni singolo evento. Ma c'è certamente Dio come creatore delle leggi che regolano tutte le cose. Questa certezza appunto non diminuisce ma aumenta con la progressiva scoperta delle leggi. Anche la sola nostra ragione ci permette dunque di scoprire che questo universo, non solo perché c'è ma proprio per come è, richiede necessariamente che esista un essere pensante come sua causa prima. Non basta quindi neppure pensare ad una creatrice superenergia, cieca e impersonale. Il fatto che l'ordine dell'universo ci riveli una sapienza immensa e richieda un'intelligenza suprema è estremamente importante, perché indica un essere pensante, dunque non qualcosa. Ma qualcuno, un tu, con cui posso entrare in rapporto. Come l'uomo di ogni tempo e ogni religione ha in fondo intuito e sempre desiderato. Alcune domande conclusive. 1. Perché diciamo che la causa prima è Dio? Il concetto di causa prima di tutte le cose, cioè quell'essere da cui tutto dipende, corrisponde all'universale concetto di Dio. Dio significa infatti questo, ciò o colui da cui tutto dipende. Qualcuno, che soffre di idiosincrasia per questo nome, può anche usarne un altro. Intanto non è questione di nomi ma di intendersi sul concetto. Può anche chiamarlo una X da cui tutto dipende. Ma tale essere, come abbiamo brevemente osservato, deve essere trascendente, non è nell'universo. Ma oltre, non è nel tempo ma è eterno, e deve essere pure infinitamente intelligente, perché quello che ha fatto con infinita sapienza. Anche la ragione può e deve allora dire che la causa prima di tutte le cose non è qualcosa, un'energia cieca, ma qualcuno, l'intelligenza suprema. Nelle religioni primitive il ciò da cui tutto dipende veniva ancora identificato con qualcosa dell'universo, un totem, un sasso, una montagna, il sole, eccetera. In realtà la ragione, filosofica, come le grandi religioni monoteiste, arriva abbastanza presto a capire che la causa prima dell'universo è una ed è oltre l'universo, trascendente. Come abbiamo osservato, dobbiamo invece fare attenzione all'uso del termine natura, oggi diffuso ma ambiguo, perché questo termine è collettivo e astratto. Cioè indica la somma organicamente strutturata dei fenomeni, non la loro causa. Se dico che la natura è bella e fatta con sapienza dico una cosa giusta, se dico che si è fatta da sé dico una cosa falsa, perché ci mostra che non si è fatta da sé e non può essere essa stessa sapiente. L'insieme dei fenomeni è la natura, il cosmo, l'universo. Essa è ancora immanente. La causa prima dei fenomeni è in realtà trascendente tutti i fenomeni, ed è Dio. 2. Il Dio scoperto dalla ragione è quello della fede cristiana? Evidentemente non esistono più dei. Anche la ragione scopre che Dio è uno, come lo sanno le tre grandi religioni monoteiste. Esistono quindi modi giusti o errati di intenderlo oppure modi più o meno profondi di scoprirlo. Anche in questo caso la verità è una, sia pur compresa a livelli diversi. Ed ancora per questo non può esistere un Dio della ragione opposto a un Dio della religione. Ciò che qui abbiamo sinteticamente ricordato è che la ragione, anche solo indagando il mondo, può scoprire che Dio c'è, cioè che la causa di tutte le cose è un essere trascendente, eterno ed intelligenza infinita, quindi un tu. Le religioni, specialmente le tre grandi religioni monoteiste, che risalgono ad Abramo, ebraismo, Islam e cristianesimo, e che comprendono la maggioranza assoluta della popolazione mondiale, conoscono questo Dio che è uno, trascendente, onnipotente, eterno. Il concetto stesso di creazione, che appare fin dalle prime parole della Bibbia, Genesi 1,1, coglie ancor più in profondità, più di quanto compresero Platone e Aristotele, in che senso tutto dipenda da Dio ed abbia anche un inizio. Dio stesso si poi è rivelato dapprima agli ebrei, nell'Antico Testamento della Bibbia, il che è creduto anche dai cristiani e dai musulmani. Quindi si è addirittura incarnato e fatto uomo in Cristo, come sa il cristianesimo. Ora cioè possiamo conoscere Dio in modo immensamente più profondo, reale, bello e affascinante. Dio è amore. Dio è la comunione perfetta di tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ed entrando in comunione con Cristo possiamo entrare nella vita piena ed eterna di Dio. Il Dio scoperto dalla ragione non è dunque altro da quello rivelatosi nell'Antico Testamento e fattosi uomo in Cristo. Anche se come si rivela pienamente in Cristo è certamente e infinitamente oltre quello che la ragione aveva scoperto e potrebbe da sola scoprire. Non a caso San Giovanni inizia il suo Vangelo dicendo appunto che in principio era il Logos, e il Logos era presso Dio e il Logos era Dio, Giovanni 1,1, e che lo stesso Logos poi si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, Giovanni 1,14. Dio quindi non si è limitato a parlarci attraverso il creato o nella nostra coscienza. E non si è limitato neppure a parlarci attraverso dei profeti. In Cristo si è fatto presenza tra noi. Per questo non dobbiamo oggi limitarci, specialmente con la vita, a quanto la ragione coglie di Dio attraverso le cose. E neppure fermarci a quello che le diverse espressioni religiose hanno intuito e perfino Dio stesso ha rivelato prima di Cristo. Ma dobbiamo volgere il nostro sguardo su Cristo per vedere Dio, e per capire anche chi siamo noi e qual è il senso vero della nostra vita. Per chi può fare però questi ragionamenti è estremamente utile sapere che anche per la ragione Dio c'è, cioè che è vero anche razionalmente. La fede è anche ragionevole, perché abbiamo motivi anche razionali per dire che Dio c'è, come li abbiamo per riconoscere che Gesù è l'unico Dio, fatto uomo. 3. Se possiamo scoprire con la ragione che Dio c'è non siamo più liberi di dire che non c'è. Ma la fede non è un atto libero? Abbiamo già osservato, essendo libera la volontà ma non l'intelligenza, che non posso razionalmente dire che Dio non c'è, ma posso ancora liberamente accoglierlo o no nella mia vita. Obbedirgli o no, amarlo o no. Sono solo moralmente obbligato ad accoglierlo, ad obbedirgli e ad amarlo, essendo creato e redento da lui per questo. Anche il demonio sa infatti perfettamente che Dio c'è, ma è il padre della menzogna, come lo definisce Gesù stesso, Giovanni 8,44, e continua a ribellarsi a lui. E per questo è dannato. E cerca di dannare anche noi. In senso più specifico, cristiano, fede è credere che quel Dio già scoperto un po' dalla ragione e dalla religione, sia davvero fatto uomo in Cristo. Per cui ora fede autentica significa credere in Lui, seguire Lui, amare Lui, obbedire a Lui. Questa è la verità e solo la verità ci fa davvero liberi, Giovanni 8,32. L'atto di fede, con cui l'uomo non solo crede in Dio ma aderisce alla sua volontà, è allora sia razionale che libero. Per questo c'è in esso anche un nostro merito, cioè un movimento della nostra volontà nel credere. 4. Se possiamo scoprire con la ragione che Dio c'è, perché diciamo che la fede è una grazia? Proprio perché fede non è solo sapere che Dio c'è, ma occorre anche un movimento della volontà verso di Lui, occorre non solo il dono naturale, di Dio, della ragione ma anche il dono soprannaturale della grazia, per aprirci totalmente alla Sua presenza e alla Sua chiamata. Questa grazia è comunque data prima o poi a tutti coloro che la cercano. Molti dicono, mi piacerebbe avere fede ma non ho questa grazia, beato lei che ha la fede. Spesso queste espressioni denotano ancora un'ignoranza di quanto la ragione può sapere dell'esistenza di Dio e più ancora una non conoscenza di cosa significhi avere fede. Denotano purtroppo, nonostante 2000 anni di cristianesimo, come molti non abbiamo ancora percepito la grandezza dell'avvenimento cristiano. Che cioè Dio si sia ormai fatto presenza in mezzo a noi, in Cristo. Non si tratta infatti di provare sensazioni, almeno non solo questo, che può essere soggettivo e perfino momentaneo, ma anche di sapere. Occorre quindi informarsi, studiare e capire bene, quindi far seguire un movimento della volontà che si decide finalmente a seguire Cristo Gesù, anche se ci fosse ancora, a livello di percezione, un certo buio interiore, che peraltro in certi momenti anche i santi possono avere, pur continuando a credere ed amare Cristo, quindi con ancora più merito. Facendo esperienza di Cristo, poi si capisce ancor più che è vero. Come abbiamo già ricordato, molto di quel buio che molti dicono di avere, non è però forse perché la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, Giovanni 1,5. Non sarà che molti dicono che Dio non c'è perché hanno paura di dover cambiare vita credendo in Lui? E il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie, Giovanni 3,19. 5. Allora non sono libero di essere ateo? Certamente. Ma in realtà non è vero. Se ragiono correttamente posso scoprire infatti che è vero che Dio c'è. Con la volontà, che è libera, posso continuare a dire che Dio non c'è o vivere come se non ci fosse. Ma con l'intelligenza, che non è libera, se faccio un ragionamento corretto, posso invece scoprire che Dio c'è. Esistono infatti nella storia del pensiero filosofico numerose dimostrazioni dell'esistenza di Dio, mentre non esistono dimostrazioni dell'ateismo. Lo stesso ateismo di Nietzsche, forse appunto il più drastico, rigoroso e portato coerentemente alle estreme conseguenze, deve infatti concludere paradossalmente ad una nuova irrazionale credenza, al mito dell'eterno ritorno dello stesso. Ci sono certamente persone intelligentissime che sono atee. Però, se analizziamo bene questa loro posizione, possiamo vedere che, o questa è una loro scelta esistenziale, quindi non un frutto dei loro ragionamenti ma una decisione volontaria e libera della loro vita, oppure, pur essendo esperti in qualche settore della scienza, possono benissimo non esserlo nel procedimento razionale, filosofico che risale dalle scoperte scientifiche alla causa prima, oppure, se questo processo razionale è stato fatto, possiamo analizzarlo e di fatto possiamo scorgerne l'errore che ne ha falsata la conclusione. Dunque, Dio c'è. L'ateismo è falso. Ma se scopro che Dio c'è non è più ragionevole essere atei, né vivere da atei, come se Dio non ci fosse.